Che si dice, fratelli? Che si dice? Si combatte per il momento tutto occhio e poi si vedrà, pian pianino strada facendo, diceva quello. Meglio così, con i poveri noi andiamo. Rientrato al lavoro ancora in infortunio, sì. C'è una visita domani alle 4:30, ma credo che non mi facciano rientrare. Credo che non mi facciano rientrare. Poi se devo rientrare va bene, non ci sono problemi. Anche a Parocci, come vogliono che facciano, così è. Sto bene sia a casa che al lavoro, non mi posso lamentare, grazie a Dio. Procede tutto bene con me, facciano quello che vogliono, ha detto bene. Se mi vogliono far rientrare, ben venga, altrimenti evidentemente ancora non sono pronto. Lo so, ma intanto mio, il lavoro c'è caldo, a casa c'è fresco, c'è solo quel problema lì. Io, vabbè, se c'è caldo il lavoro, già lo troviamo qualche albero. Vieni qua. Oh, le tutta quanta. Se anche rispondere. Domenico. Domi. Dammi un piccolo controllo come ti sto arrivando lì nella tua zona. Cambio. Hai sentito la tua letto? No, per la 10. Aspetta un assolo così. No, già ho sentito, già ho sentito. Cappa. Che cavolo sta facendo, cazzo? Io ho messo quella roba a cucinare, datemi. Così Antonio? Così Antonio? Tu? Senti, mi hai provvedato il sopra. Dove sei? Quindi hai come le posso mandare? Dove sei arrivato, Romeo? Ehi, hai capito, Dio? Non si chiama. Cambio. No, come sta a me? Ecco cosa, no, penso che scendi il volto il segnale. si è concisa, dai. Ok, guarda, carica tutti quanti, quelli, diciamo, dai, ci riprendo dopo, dai. Va bene, va bene. Scusate, qua è a fondo sala. E qua arrivano perché 30. Da quella zona lì per il momento è più forte di tutti. Ma se aver toccato il punto siamo di dirlo. Bene, ultima anche la radio. Ok, grazie, buon pomeriggio. Ti ricordo che c'è l'antenna Giuseppe, siccome l'antenna è nata la Gabriella. siamo con QRM. Ciao, dove sei? Siamo di QRM. Lo sento basso. Giallo, prova a parlare. Sentalo qua, Giallo, però c'è un po' di QRM, non è colpa tua, c'è un po' di QRM. C'è stato anche un break, avanti. Avanti, California su Sicca. Le parole con Gianni del Bruno, avanti. Dalla città migliore del mondo. Capa, vedi come lo indovini subito. Brava, brava. Tutto quanto c'è, tutto qua. Tutto quanto. Andare. E adesso si rumorizzati. C'è il problema della bidella da tutti i due. Ma la pillarella se te la prendi? Vai, la ricercata, vai. Quindi la c'è più vende pure tu le vado la pillarella. A chi mi dice che sei papà, sei papà a macchina? Ma chi è? Falco Nero? Attenzione, Falco Nero, Falco Nero, se mi ascolti qua. Cambio, stazione Leoncino, che si supera, saluto con le città. Cambio. Buonasera Vulcanino, ciao, da questa parte Leoncino e ti super saluta. Non lo so con chi sto parlando. Te l'ho detto, sono Leoncino, Leoncino mi pa... nonno già mi conosce, nonno già mi conosce. Ovvio, lui è un vulcano, è il Vulcanino. Non avevo capito la parola del nome. È strano, così così. Ma perché è strano? Io mi chiamo Leoncino, Leoncino e Leone della Foresta. Mio nome è Alessandro, Alessandro, è italiano, non è della giusta. Il mio nome però è Giuseppe, è capito Vulcanino. Alessandro, ti ha detto Alessandro? Nonno deve provare un microfono. Un attimo. Come ti rotto è Antonio Giuseppe. Va bene, Antonio Giuseppe, va bene. Ma mio vedicione qua, salutare il signor Cinco Capo di Sorretto. Scusate, Claudio. Poi a... Cosa se esce con questo microfono, se funziona? Alla grande. Se fosse un bagaglio poi c'è la capsula nuova, il suo microfono, questo fa pagare. Va via pagare. Adesso poi c'è una del microfono del Midra, delle 48. Ora dei vecchi per cose, gira 10 burube. Fernando, gira la grande, vai già. Ehi. No, già va bene, non prima non usciva, se premi dentro ma che se si fa male già. Positivo, dai, che gli metto una vittina che gli manca nello spinotto e se lo diamo, se lo porta contento e felice. Raga, ma scommetto la vittina piccola. Positivo, dai, adesso quando vi serve una moto a carrozzella di sabbia dalla Crucca basta andare, questo è Marco della Crucca. Ascolta Marco, faccio un viaggio di raggio, capito, di largo. Però dobbiamo farla a quest'ora, se no mi dici Giulia, ne vai. Ciao Luca, devi andare per caricare la motocarrozzella, una 50 di zappa, non per stato mai. E voglio un carico di lato, lì, porto lato di buco, capito? Però con questo caso bisogna caricarlo di notte, se me lo fai fare. Chi è che vuole entrare? Oh, ha detto, dice, Marco, quello della Crucca, mi dice, Bariccia della Crucca. Tu è, salutacelo. Positivo, numero uno CB preside. Sì, che tra poco c'è lì, sì. Ci sa il numero uno, dove c'è che è il numero uno, eh? Oh già. Sto rientrando da Vigliano, di Gibraltano stasera. Lavoro sul 45, ci ho mai sentito con la Lan 48. Ma che c'è per fare il grande, no? Allora che non funziona. Stavo parlando ed era nella salita di Poligattino lui. Poligattino lontano da qua, e anche da Alonso, eh. Stavo parlando con Coso, come si chiama, con Terremoto, ragazzi, come ti chiama G? Sì, no, Albino Radio Baccano. Sì, Albino Radio Baccano. Erano a 2 chilometri, uno distante dall'altro, non riusciva a sentire che mi doveva essere. C'è parte anche io, ma che ti chiedi da sé? Ma cos'è vinchiato, bello? Mamma, la vecchietta, roba, Gigi, digli. Però che triste, Gianni, che cosa mi stai dicendo? Cioè, sono davvero rincoglionito. Io pensavo che rincoglionito era Giuseppe. Ma parla sempre il Vulcaino, ha detto nonno Luigi, sta facendo cose. Ciao, Vulcaino. Ciao, chi è? Marco. Vabbè, Vulcani, rispondi a Marco. Marco, hai detto Marco? A me non sembrava la voce di un Marco. Mi chiamo Marco Dottorum. Junior. Junior? Sì, Dottorum Junior. Allora lui è un bambino. Ti sento una voce stranissima, non la capisco. Sono un alieno, sono tutto gonfio. Tutto gonfio. Non ho capito ciò che hai detto, se parli, cosa hai detto? Sono tutto gonfio, mi chiamo Gianni, buonasera. Quanto bambino, quanti anni ha? Boh. Ho 15 anni, ciao, come stai tu? Sei tutto a posto, sì? Allora è più grande di me, io sto andando a giocare con mia cugina, ciao. Io sono piccolino. Ciao anche a Marco. Che l'ho detto io? Tonello, Pomponio. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imbarrato. Imbarrato! Certo, se ne parlano tutte e due assieme, non c'è un altro nome, io non li capisco. Mi guarda che se li capisci tu, magari c'è già più aperta. Sono tutti e due dello stesso segnale attaccati. Non so quanto ti sbaglia, lo sai. Io mai ho solamente una cosa che non faceva fine di quell'aggeggio che c'aveva in macchina, solo quello. Se posso, Marco, come riparo la verità? Se non c'è quello, guarda, mi passa la tappa del culo come un circolo grande. Ogni giorno mi faccio una risata, mi faccio ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Parecchio pure, 20 libri di guadagni ci sono. Come da me, forma 9:15, 9:32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, vendo, compro e scambio. Oh, vabbè, attacca che non c'è per nessuno, anche a volte ti mangi tu. Cappa. Aspetta, sentiamo 9 semi con la in direttiva. La 71 è sempre una roba in direttiva, sì. Un bel guadagno, parecchio. Cappa. Poche vanno, ne sto usando solo quella roba là, 80, apri tanto lei. L'ho abbassato un po', a 80. Ascolta, io ti spacco la testa. Perché ti spacco la testa, lo sai. Allora, i batti e i barchi, non puoi attaccare, non puoi abbassare, non me lo puoi rinviare, quindi lascia fare come, così come sono le cose. Quando fai la trattura, devi mettere la batte e non batter, basta, non di più. Non puoi abbassarti, hai capito? Quindi lasciali così come sono e come stanno, la verità. Sono come sono, Antonino, stavo scherzando. Oh, cazzo, ma con uno scherzo capisci? Oi, oi, oi. No, non è che non capisco mai con lo scherzo, il problema è quello, capito? Quindi, se tu la cosa usi bene, poppa bene, non puoi lasciarla così, hai capito? Lascia così com'è adesso, è perfetto. Tranquillo, sì, sappiamo l'opera, tondo, tondo, tondo, senza antenna. Capa, va bene, ok. Un attimino solo, cazzo, quali siete? Siete precisi identici. Allucinante, c'aveva ragione, guarda Claudio ieri sera. Siete uguali, tondi tondi, tutti e due. Uno con la ricca, l'altro con la malta, magari. Come sarete, siete bravi. Non abbiamo 27 anni, ti faccio due con quello di 15 anni. Io con Claudio, grazie a Dio, ci conosciamo 20 anni, abbiamo un po' vicinato, non abbiamo mai avuto problemi, quanto gli piace, anche lo stesso, però siamo di questi problemi. La verità, già, stai guardando stasera, non mi piace come stai parlando, la verità, non mi piace. Quindi, io non ti sto dicendo che lui è arrivato più forte di te perché non ti vuoi pensare come guardate cosa è andato. Non c'entra proprio niente, la verità, non c'entra proprio niente. Il problema è solamente che lui sta provando più vicino 31, siete uguali, il segnale e basta. Non è che ti sto dicendo per far male o per farti incazzare. La verità mi dispiace se la prendi così, perché mi dispiace parecchio, Non pensavo la prendessi così. A un certo punto, guarda, non fa proprio, Ali, basta dire, sono sempre arrivato, lo prendo il cepiglio e fare come un cazzo c'è? Cosa fai, Ivano? Non ho capito. Io sono contento se Dio ci riesce bene, non sono geloso di niente, non mi interessa, capisci? E quella che se voglio posso fare anche i massimi io, non c'è problema, ma non mi la fatti nulla. A me mi basta con me, esco tranquillamente. Non mi interessa che gli altri stanno più o meno forti, non me ne frega nulla di quello, a me mi interessa fare radio e uscire a farmi sentire tutte le parti, tutto lì. No, ma a me mi dispiace tutte le biglietti per quel motivo lì, o già il discorso è quello. mi spiace proprio, non è che lo stiamo facendo apposta, la verità, come la penso io, guarda, è proprio anche Claudio, la verità, perché è così, io non voglio che la pensi così, la verità, perché sono fatto così, quindi mettiti l'anima in pace, io non ce l'ho con te, Claudio non ce l'ha con te, ma come anche Giuseppe non ce l'ha con te, quindi stai tranquillo, non è niente di personale, perché non è niente di personale, la verità, quindi stai tranquillo, non avere problemi, e dammi le camme. Va bene, Alice, va. Ci troviamo e beviamo assieme, mangiamo assieme, quello che è. Però non c'è nessuna altra cosa, capito? Sì, a proposito, io organizzavo qualche cosa, a proposito di cose di politica, organizzavo qualcosa da mangiare. Quando vuoi non c'è problema, organizziamo, io lo sai Gianni. Se siamo i soldi, questo è altro, io lo sai più di me. Volevo farmi dire, ci pareva vedere a Gianluca, ma già Si farà una barbotta, non c'è problema. Gianluca, già. A proposito di Gianluca, ci sei. Ancora le arrivo, se faccio la geometria Gianluca, qui te l'ho spiegato già, ha avuto problemi Giuseppe, e noi possiamo andare a finire la macchina di Giuseppe, perché erano le 10:30, infatti aspettavamo la tua chiamata, però poi era tardi, Guido va via, lo guido di fatto, ho detto no, io così non ci vengo, a parte il fatto che se mi devo fasciare, perché se mi vengono i colleghi è un casino, e quindi ho detto facciamo una cosa, io e Gianni che siamo qua, Pietro le 16, stiamo parlando a bocca d'aria e rimaniamo qua, perché altrimenti si fa tardi e poi è un casino, si può andare a mezzanotte in giro, grazie, ma può fare invece, non ci avevamo neanche una cesina in tasca. Vabbè, se ce l'ho voi io sono quello, non è un problema. Scusa, pagare uno la famiglia, pagare l'altro, esattamente. C'avevo, diciamo, non ero ricchissimo, ma già qualche cosa ce l'avrei, cioè almeno una cinquantina di euro in tasca ce l'avrei. Ah, io sono andato al banco, ma te l'era bloccato, no, non c'era nulla, non funzionava, no, per due non spesi, ma comunque non erogavano soldi. E quindi ho detto Giuseppe, dove avremo? Niente, io mi ci faccio, rimaniamoci per fare segni, se abbiamo invece una cosa, ci beviamo una cosa, basta, siamo i martedì già, ma ci organizziamo diversamente, si organizza bene, quando Gianluca magari va, andiamo anche noi e va bene così, capito? Vai. Arrivate a questo canale, Gigi sta facendo il microfono, Giuseppe, e quindi tra l'altro lascialo attaccato qualcosa, non c'è bisogno, siamo qua in questo qua. Se lo vuoi entrare qualcuno da fuori, lo attacchi. Ah, va bene, là, l'ho messo in stand by, dai. Va bene, già va bene, Claudio. Il discorso è quello, l'ho detto, io ho avuto problemi con quella questione là della macchina e. Vabbè, per andare così è meglio rimanere a piedi, non saranno, ho preferito anch'io non andare perché a rischiare poi a fare altro danno, non credo proprio, certo solo quella c'ho la macchina, Claudio, non ne ho altre. Infatti se Gianni magari si liberava prima, ci organizzavamo, andavamo tutti con una macchina, capito? Smettava la benzina e andavamo. Gianni, non ti preoccupare, non ci sono niente. Intanto non ti incazzi, no, per queste cazzate non ho voluto che ti rovini il fegato, va bene. Quindi tranquillo, non pensare a niente, fregate, dammi detto a me e a futurini. Sono rilassato, Antonio, sono tranquillo, là, non c'è problema. Sono incazzato solo perché tu al riso sembrava che stessi sfottendo, ecco, per quello mi ha fatto male, non per altro. Non è successo nulla, io non appena un momento, come già mi basta, non è che siamo, quindi non ci sono problemi, niente, adesso mi metto il 2001, va? Guarda che io non ce l'ho con te, non ce l'ho con nessuno, quindi tranquillo, tranquillo, a fute dimmi, non ce l'ho con te, è stato vero, sta soltanto a te, la verità, quindi a fute dimmi. Quando vai in tattica, il segnale che c'hai tu, la liscio, c'è anche Giuseppe la liscio, quindi capisco c'è il tutto che sta a me, io l'ho dato, e quindi se ti guardi il segnale, tutto lì, non è che ti stanno svoltendo, la verità non mi passa mai per la telecamera, per come la penso io, quindi non ti preoccupare Gianni, non ti incazzare, non ti incazzi, voglio che sei tranquillo, non mi tranquillo. Perché siamo, ci conosciamo più di 20 anni, quindi sai come la penso io. Dai, tranquillo e beato. Nessuno ti sta facendo niente. Fregatene. Ma aspetta, rimano lì. Sto qua, chiuso, chiuso a Parigi. Che bella sta facendo, qua? Ci vuole, scusa, te lo so che devo dire questo discorso, la verità, ma ci vuole a un certo punto, perché è stato preso male, scusa, l'ho preso, preso male, non è che, vabbè, tutto si è concluso lì, tranquillo, andiamo tutti quanti a trombare la mattina, tanto la verità siamo tutti quanti lì, andiamo tutti quanti a trombare, proprio di tu. Cerca un punto, un posto, quello che vuoi. Non c'è problema, pago tutto io. L'unica cosa che ha per antenna è che è troppo sottile come materiale, però come funzionalità va bene, non posso dire il contrario. Quindi, avanti ai tutti e due, tu e Gianni, buonasera, commendatore, ben sentito. Che discorsi, per carità. Cosa vuol dire, Vittorio, che discorsi, cosa c'è? Bambini. Vista, Vittorio, diglielo, diglielo che sono bambini, diglielo. Bambini, per carità. Vabbè, quasi tu quelli da grande, quindi ho considerato che si è stato per fare quelli da grande, per quelli da grande, noi ci reputiamo persone tranquille e adulte, e poi se tu ci consideri bambini, fai tu discorsi da grande, bisogna che tu sei più adulto. I discorsi non sono determinati a un certo tipo di parlare, ma è determinato all'esperienza bambinesca. Per qua siamo per rilassarci, non fare arrabbiarci, io non voglio manco rispondere, e prendi tu, prendi tu. Claudio. Scusami, ma sempre per l'altro giorno. Non lo sai fare, non lo sai fare tu. Vabbè, l'imitazione è semplice, va, si chiama. Tappe, tappe. Quello si vuole, aspetta, aspetta, non cominciare tu, già, comincia. competizione. Io sono sempre stato convinto che tra una penna e l'altra, tra una mandova e un arrigo, però montata come i cristiani, montata bene, bene, bene, non è che ci sia tanta differenza. Alla fin fine un giorno l'ho constatato io stesso che l'ha provato una persona. È normale che c'era tutta questa grossa differenza, la verità. Montate bene, diciamo che più vago, cioè non te ne accorgi, io ti attacco una, ti attacco l'altra, ma raro ne comprendi che gare una e gare l'altra, come si fa? Guarda, io questo non l'ho mai provato, però ti posso garantire sia l'arrigo e l'attacco, la potenza che hanno la tasca e l'arrigo si piega in due, questo senza mai di dubbio, capito? Sicuramente si piega in due, quindi la mandola è superiore, non ci sono antenne che infatti tranne la superstella 24 che tiene 5 kW non ci sono antenne che possono superare. Questo te lo posso garantire per esperienza fatta. Quindi la riga è una signora antenna, qualità prezzo, va bene, ma non puoi attaccare grandi potenze. Perché se io li attacco gli amplificatori che ho io, come stavo lavorando stasera, stai tranquillo che per come era caldo l'amplificatore io penso che l'antenna sia già chiusa, capito Antonio? E poi ci vogliono cavi grossi, ci vuole l'impianto fatto come Dio comanda, perché altrimenti un rientro di RF con quell'amplificatore a un kilowatt e mezzo di potenza disintegreggia la borsa verbale, questo senza ombra di dubbio. Va bene, Antonio, lo riprendi. Ti rimane in mano, la verità, quello che fate lì. Figurati, concentra, adesso vediamo come si comporta con Giuseppe. Vediamo un pochettino. Cosa non vedo niente, cosa è cosa? Non faccio la danno addirittura. Penso che non gli faccia niente, 800 watt, oh. 800 watt? 800 watt? Ma tu lo sai quanto sono 800 watt? All'ingresso del polo caldo dell'antenna, Anto, lo sai quanto sono, però? Questo, non so che sono un pezzo, però loro la danno per 3 kW, apparentemente tiene, scusa, Cazzo, non dico che tenga, non tenga tutte e tre, ma almeno uno non si arracca, parola. No, uno stai sbagliando, Anto, Gracias. la BA 27 è già diversa, la BA 27 è diversa, ma la Ringo è un'antenna da balcone, dai. No, non è da balcone, è da tetto, un cazzo che ha un bel. Se è stata da balcone me la presentare io, dai. Vabbè, comunque quello che tiene funziona abbastanza bene, comunque, quando si mette come i cristiani, funziona benissimo, ed esce forte anche, c'è anche una bella ricezione. Tanto non c'è ombra di dubbio, non voglio disportare la Ringo perché è un'antenna che abbiamo un po' tutti, io non l'ho mai usata, mai provata, non so, l'ho piazzata a Mauro per terra, l'ho messa su, uno e due di stazionari, non l'ha mai toccata, lui l'ha usato 140, va benissimo, qualcuno l'ha usata, andava benissimo, c'è anche l'Odiosi che la usa, va benissimo, c'è Giuseppe che sono stupefatto perché va benissimo, però quando parliamo di fatti siamo attenti perché i fatti erogati da un amplificatore professionale sono fatti, non stiamo parlando di un DV131, non stiamo parlando di un 2001, non stiamo parlando, ma quando parliamo di lineari con 5 valvole più una pilota che erogano al picco massimo in modulazione in modo laterale, 1,6 kW, 1,7 kW, l'antenna deve tenere, il cavo deve tenere, i piedi devono tenere in tutto, perché altrimenti scopri tutto e ti fai anche male, questo non ci sono dubbi. Avanti Giuseppe. Giustamente quello che ha detto tu è giusto qua, però a competenza come sono messo io di questa questione dell'antenna e tutto quanto sono super sotto linea, super soddisfatto, capito come parlano, anzi a come ero prima che riuscivo con la base magnetica tutto quanto attaccata al condizionatore e quello a confrontareccio ho fatto una piscia, capito? Da là al 100, capito? Sì, c'è da là alla Z, Giuseppe, non da là al 100. Da là alla Z, ma senza ombra di dubbio, per rispondere Antonio, è così. La realtà è quella. Però stiamo parlando di un'antenna che, come è piazzata da te, con un lineamento da 100 watt, è chiaro che vai da 9,15 a 9,30. Quindi vai bene, stai erogando alla grande, l'antenna sta superando quel limite minimo che deve superare, va bene. Ma un'antenna come la mia che è piazzata a 40 metri di altezza, a 40 metri di altezza, con un H110, che è quello proprio a bassissima perdita, i cavi quasi li perdono tutti, però questa è a bassissima perdita. All'interno e all'esterno io ho dei PL in porcellana, ok? Soprattutto sul lineare, cioè i cavetti con i PL in porcellana che sono della Kenwood, comprati appositamente dalla Kenwood, che tengono alta caloria. Se tu hai un lineare che già ha 800 watt di portante, non le monti quei PL, non le monti un cavo buono, e cosa cazzo arriva in antenna? Cosa eroghi in antenna? Eroghi niente, eroghi la metà di quello che ti sta segnando lo strumento. Quindi c'è anche quello, capito? Perché se tu hai un RG58 o un 213 che è un buonissimo cavo, però la perdita è sicuramente superiore a quello che ho io, e le metti 800 watt, che sei convinto che a 40 metri arrivi 800 watt, non rimano 500 tu. Quello sono completamente consapevole. Che io sono messo quel cavo buono come quello che hai tu, ma sono convinto che lì a 40 metri di altezza dove abiti tu è cosa se ci metti un'antenna del genere rende molto forte, rende. Se non hai problemi magari ti attacco un lineare da 300 watt, 300 watt e non hai nessun problema penso. Non lasci tu neanche che hai ragione tu, che eroga contro la Mantova sicuramente, no? Perché l'ombra di radiazione è molto alta e quindi l'antenna ha una radiazione molto aperta, ma io mi riferisco sempre a quello che usa Giuseppe, qualità prezzo per come è montata l'antenna, per l'uso che lui sta facendo della radio, un baracchino di vecchia generazione, adesso stasera Antonio ha voluto fare la prova con questo 1131 e siamo consapevoli che i suoi 100 watt, al 100%, perché almeno meno perdi per il cavo, quindi soprattutto guadagna nello spunto, capito? È tutto lì il discorso. Ricordiamoci sempre che meno carro abbiamo, più lavora l'antenna, più erogano gli amplificatori. Più carro hai, chiaramente, nonostante ti aiuta la posizione, come aiuta a me che non ho problemi da nessuna parte, però è chiaro che qualcosa perdo, qualcosa forse di più di qualcuno che ha meno carro, questo non si discute. Antonello, tu prendi Antonello Alessio. Allora, Antonello Alessio c'ha l'antenna che è a 10 metri, 8 metri. Se lì lui dovesse montare una mantova, ok, con un H100, ma anche con un 213 che c'ha 8 metri di cavo, usare il mio amplificatore, escono le scintille forti. Ma io non avrei dubbi, ma non ho dubbi, che arriva molto, ma molto più forte di me da tutte le parti. Perché? Perché guadagna moltissimo dal cavo, ma è una perdita di me, capito quanto quello che tu dici? Sì, ho capito. Cioè. Vabbè, comunque, funziona abbastanza bene, dai. Basta fare le cose bene, l'unica cosa che aveva è che sicuramente quel DL è poi isolato bene, perché insomma è un po' carico così. Però mentre le cose come si devono essere messe, l'acqua non entra più e cosa, funziona bene sempre. Ogni tanto gli faceva quel difetto, però non è neanche un difetto, sono cose che possono succedere, dai. Guarda, io glielo ho detto a Giuseppe, glielo dico nuovamente a Mario, quanto a tutti, io ho tenuto bene, vado lì, mi rampo tutto in terra e il lavoro lo faccio io. Capito? La tappa va fatta a L, in modo che esca la cornicione, vada dritta su, innestata l'antenna come se sia sul tetto. E su quello non ci piove, se mi serve l'autoscala vado con l'autoscala. E ti faccio vedere che lo lascio la stessa antenna, le monto il radiale a quell'antenna, e esce meglio con la mano, ma su questo non ci piove. Vai Antonè. Sì, comunque c'è così. Parlamelo come penso io, Bisogna metterci il radiale con la specie di antenna che c'ha lui. Cosa penso io? Fatto radiali, messi bene, è perfetto lui, tranquillo e beato. Giuseppe. Poi, viene a fare. Prova a attaccare un secondo. Parla. Da 75 sentiamo 9, passa, figurati, in direttiva. C'è pompa con l'aggeggio, a vedere pompa. C'è cosa pompa? È pompa sì. Va bene, che lo metto in stand-by, dai. No, poco a poco, non ti preoccupare. Fate un paio di essere stavolta, tutti i dini. Vado a scaldare, almeno tu utilizzi un pochettino. Io di qua a casa, la verità, non è che lo usavo molto, Usavo tutto un pochettino. Vabbè, non c'è problema, allora, non c'è problema. Già, adesso lo usiamo poi. No, ma per città... Va bene anche normale, innanzitutto per farci sentire, Antonello, non voglio essere geloso di una cosa all'altra, capito? A me, io l'ho messo perché mi piace, perché il mio sogno era anche quello, a parte quella cosa che c'ha Claudio, che è la numero uno della cosa. Guarda, avere quella roba lì, per me era sempre, io te l'ho sempre detto a te, Antonello. Di prendermi quando avevo la possibilità di potermi prendere un bel Alan 48, perché non hai capito, mi piace come forma e come tutto, è un bel baracchino, niente da dire a quello che tu mi hai fatto il regalo, allora non capire male, anche questo è un bellissimo baracchino, però il mio sogno era sempre avere quello del scoprire l'Alan 48, capito? Ho capito, non ti preoccupare per quello, ti capisco e non ti dico niente, la verità, e quindi a me mi dà fastidio che c'è un telefono che abbia capito Gianni una cosa diversa da un'altra, tutto lì, solo quello mi dispiace, la verità, perché siamo tutti amici, tutti siamo a baracchino, quindi uno aiuta l'altro, il discorso è quello lì. Poi se lui ho capito male, non lo so, la verità, non si vuole niente, la verità, perché non posso dire niente. Claudio è stato in gamba, io altrettanto, tu altrettanto, quindi quando si parla al circolo, queste cose qui non esistono, capito? Solo quello, quindi io rispetto a tutti quelli che i cibi che ci sono, Gianni, Claudio, quelli che sono. Quindi per queste cose qua, per uno più forte altro basta, non esiste più, sapete non esiste, è cancellata questa cosa. Quindi, viva l'Italia, la verità, e ci divertiamo un pochettino con Balacchino, perché è la ora. La verità si dica, quindi Gianni, lascia perdere le presunzioni e fregatele. Quindi divertiti e basta. Va bene, va bene, d'accordo con questo discorso, io giomagliato, Bidu, e tu sei d'accordo con questo discorso, ma la futtidina, è andata e basta. No, non era partito la verità, dai, te ne piace per niente, dai. Divertiti e basta. Sono divertito io, la verità, la sera. Sono tranquillo, la verità, Claudio mi conosce, quindi non mette bene la cosa, fregate. Se dice, cioè, se per l'Italia non ha potuto, la verità. Ma se parliamo noi, il discorso mi dà fastidio, quindi divertiamoci. E vabbè, la cosa magari è stata fraintesa, non è successo nulla lì, tutto apposta. Che c'è? È ancora Claudio? Non siete saliti a cosa? No, già, siamo sempre qua. Va bene, Antonio, va bene, hai avuto il diritto di replica, tutto brutto è quando uno non ha il diritto di replica, capito? Nel senso che non può replicare, quindi c'è fatto un malinteso, tutti si è espresso male e Gianni giustamente ti ha represso. Avete chiarito tutto qui, non mi vuoi dire di più. Ci sono rimasto più male per l'intervento di Vittorio, che sorpreso per bambini è una cosa che non capisco, vabbè. Ma dai, non ti preoccupare per quello. Vittorio già capisce, non ti preoccupare. No, io non ho capito proprio. Vittorio, ci sei? Vai, vabbè, pazienza. Anch'io non dovrei entrare dopo. A volte fa discorsi che io non capisco, quindi non dico che è un bambino. Lo sto vedendo con i bicinetti. Cioè, sono un po' di anni, capito? Figli grandi come lui, e quindi non è che si può permettere di pensarla come vuole, no? Vabbè, dai, tutti i denti. Dai, uno ne ha avuto. A Felipe ne avevo avuto, la verità è come CB. Anche ti caccia, fregata, tu. Vabbè, accettiamo anche questo. Appunto per quello, no? Accettiamo anche quello, no? Tutti i denti. Siamo tranquilli, beati, siamo, non c'è problema. Io vorrei dire solo una cosa, semplice. Uno quando non mi piace non deve stare dicendo nulla, prende e spegne la radio, punto. Giusto, condivido perfettamente. Ma c'è una cosa che voglio sottolineare, che è un po' di tempo che ci manca di rispetto, non è che voglio mettere in presunzione perché ho 53 anni, ma a volte ci sono persone che da 40 anni a 30 anni si permettono così di fare via, ci vogliono un po' più di rispetto, non per la persona più grande, però a me non è l'educazione, me l'ha insegnata. cosa non mi piace, anche in televisione, cambio canale, o stai con la televisione, sto finché lì, e così deve funzionare. Sono d'accordo con te, vabbè, comunque, manda le ciance. Chiuso il discorso, se no quelli da capolimico hanno, non mi piace polemizzare. Sono già troppo polemico di carattere, quindi va bene così. Quando uno ha il diritto di replica, tutto funziona bene, tanto le leggiamo, tata, a posto, finito. Poi quando uno ha il diritto di replica pensa di avere ragione. Allora sono cose che non vanno bene, perlomeno a me non vanno bene. Perché quando uno chiarisce, dice guarda che non è così come ti hanno detto o come hai sentito, allora il discorso cambia. Quando uno è fissato nella mente che ha ragione, non ce l'ha, allora è una cosa che mi gira un po' le balle. Che prendi, Giuseppe? Beh, giustamente come hai detto tu, uno deve, in frequenza deve avere sempre rispetto sull'altro, perché sennò la ruota si rompe e ognuno fa vita, parla a bambola, hai capito? Dunque, a parlare da solo. Dunque, invece, tutti quanti amici, si parla più o meno di mangiare, si racconta qualche barzelletta, qua e là, si fa qualche battuta, così la cera, 100 litri pure dal seminato, e dunque, e si va avanti così. Se no, se rimaniamo nemici in frequenza, allora, tanto vale hanno dato la messa a fare il barattino, se non ti parli con quello, non ti parli con quell'altro, e allora, lui è come ha detto Antonio, uno prende, spegne, si guarda la televisione e se ne frega degli altri. Siamo salvi allora. E ora? Sì, l'impiegata ha segnato. Ci facciamo un culo, però non siamo lontani, la verità. 2 a 0. Andiamo a pagare. 2 a 0, Balotelli. E ora? Tanto devo pagare, se cazzo. E ora? Balotelli però. Ecco, ti senti tu? Tanto devo tombare forte. Sto pigliando il tram, non ne sai niente stanotte. Ti giuro, guarda. Hanno fatta tutti a palazzo. Già, metto la torta, vabbè, vabbè. Antonio l'ha fatto così, dai, quello che pensa, dice. E fa bene, fa bene. Comunque io dico una cosa, che la colpa è tutta di Giuseppe, perché se lui non ci avesse più uno non sarebbe successo niente. Manca te ne vai già. Ma chi fa di Antonello che viene andando? Addirittura sono venuti qua tutti e due, hanno voluto lo spezzone, gli ho dato lo spezzone a chi doveva attaccare il lineare, compresi. Ah, ecco perché. Ah, non è il tuo. Da 5 da 5 watt e 10 watt appaga ce n'è qualcuno in vendita, ma non sembra come la valvola, tu vai a comprare la valvola e la paghi queste quattro lineari, se ti infili. È quello che c'è, non sembra come quello che ti vendono, capito? Sono attaccati, io però, aspetto. aspettare un secondo. Devi aspettare un secondo solo, perché c'è questa alimentazione che mi difetta. Devo aspettare che faccia tutto il coso, tutto il... e poi... Fantastico. Ok. Prova tutti e due assieme, voglio vedere un secondo segnale, quanto cambia. Voglio vedere quanto si è guadagno, da uno all'altro. Ecco qua, non si sta a parlare insieme, guarda il mio segnale, 1, 2, 3, così anche qui. Mamma mia, ma contento. Guarda adesso 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, prova Giuseppe, secondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uguali siete. Già siete uguali tutti e due. Sì, ma bisogna avere un taranto, è vicino a taranto, si trova queste cose, si può avere un taranto. Sì, ma tu sei già pensato, sì, comunque. Invece è chiaro, il discorso è quello. Cambia parecchio la cosa. Guarda, adesso sono salto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Scende per la pera. Ola, ola, ola. Ah, qui fa poco tempo non è stato, l'altro va benissimo qua. No, è stato, io sento così la verità, comunque, perlomeno. No, ecco, non è una separazione, una comprensione proprio dal fatto stesso dell'ingresso sulla storia finale dell'amplificatore. C'è da dire questo, però attenzione, c'è da dire questo. L'erogazione dell'EBV131 rispetto a quello che c'è Gianni è totalmente inferiore, perché Gianni alla quinta potenza, quello di Gianni eroga quasi 200 watt, Giuseppe sta andando con 100 watt, 110 watt, quindi c'è anche una differenza di watt. E quello già lo so, non c'è per niente quello, comunque sia. E questo è così. Gianni è interessato, invece Giuseppe è chiario lì di Dario, tutto lì. Forza Italia. Ehi, la buona arrivare, avanti. Ciao Pedro. Forza Italia 2-0. Ma è meglio così, sono contento qua. Finita la partita, sono... Positivo, buonasera a tutti, sono due circolari. Sì, sì, doppietta, doppietta. Cassano Marottilli, K. Cassano, salve, quanto era già dentro la palla? Vabbè, due gol, Cassano Marottilli, quello dice la cronaca, K. Tutto una tombata, è entrata a prezzo. Ok. Io invece ha fatto un gol micidiale proprio, in rovesciata. Cazzo, Super Mario l'ha fatto da micidiale. Super Mario l'ha fatto micidiale, che bello. Io così sono contento qua. Bravo, wow, così sono. Fatito di Sandro, ecco, lo levo. Mi va occupo. Come? Rauco, mi sembra un po'. Ho capito, Rauco, sì, lo stai proprio giusto. Rauco, no, Rauco. Ma chi lo si chiedi, cappello? Siete, portiamo i cili. Aglio, aglio, porta. Segna. Finalmente ha segnato due gol, dai. Andare. E allora? Ci è salvata l'Italia. Ciao Claudia, ciao a tutti i circolari, ho dato tutti i cappelli. Sono la mia. Beh, vabbè, come va? La posta. Come? Tutta la posta, vabbè. Sì. Meglio così, sono contento, va. E allora? Se si sente come per l'ascolta, tocca abbassare tutto qua, se lo si sente come fuori, cappa. Salve, l'altro giorno ero la Davide, e ho sentito le tue voci, cazzo, le tue voci, ho riconosciuto dalla voce, ma tutto dovrebbe essere Salve, mi sono girato il ritto fuori del bar. Cappa Roger, può essere. Cappa può essere il tuo ritto. tranquillo. Eri di fronte al bar dove raccontavi prima, eri nel bar di fronte. La sala giusta. No, va. Vedevo la via. Hai visto? D'accordo, d'accordo. Maniaco, d'accordo, d'accordo. Ma c'hai i soldi quando fanno il funerale con la persona? Dopo domani. Quando? Positivo. Quando l'hanno fatto? Ieri mattina. Lo vedo. Non lo sapevo. E dove l'hanno fatto? L'altra domanda? Meglio. Paga. Ma io oggi ho visto il padre. Mamma mia, che faccia che aveva. Ma è un po'. Ciao, Guido. Poverino. Poi l'altro giorno stavamo parlando con Luca, siamo andati a farci un panino. Stavamo parlando proprio con lui. Non sembrava vero. Già, ma siamo andati assieme a farci il panino, noi due. Quindi una volta. Non c'era lui proprio dietro il bancone. Sì, io stavo alla porteria, faceva le pizze, faceva il panino. È proprio il giorno, siamo andati a mangiarci il panino noi, ce l'ha fatto lui proprio, ti ricordi che stavi parlando della moto? Non gli ho dato il numero anche di telefono, te lo ricordi il numero di telefono, tutto quanto per buscarmi la prima. Ti ricordi, è proprio il giorno, eravamo mangiandoci il panino, già. Visto, Vabbè, purtroppo le cose, quella roba lì fa male a tutti, hai capito? Poi, specialmente se è fatta per vigliacchezza, è coso, per odio, soffre ancora molto di più, hai capito? Ma questo chi è? Leoncino? Sì, Leoncino, è un padroncino, non scherzare, a come Pupù? Aspetta, Salveria, guarda come ti fai il cambio. Cos'è che mi fa scattare a me? Non passi già, non passi già a con Leoncino. Cos'è non passi già a me? Ma cosa può prendere anche Leoncino? No, già l'ha provato la seconda di Leoncino, non ce la fa. Passa Leoncino qua. Avanti, vabbè. Ma cosa c'ha Leoncino sotto? Quello piccolino, quello che c'è fatto a Bergere. Fa un passaggio Leoncino, ti attino, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lui ce l'ha a perdere, appena tu arrivi nemmeno Santiago 1. Arrivi sul 3 aperto, ci ha attenuato nemmeno uno. Prova a staccare a vedere. Staccato, Che passa a te, la stai dicendo, lo sapevi, ma non è così. Ho capito. Non ci vuole che passa a me, forse non hai capito con lineare. Sì, no, io sto dicendo che qua, quando io attimo, non arriva nemmeno uno. Io invece sapevo che se arrivo attenuato, no? Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grazie. Mi arrivi quasi 9, tu attenuato. Quando sei liscio mi arrivi 2, 3, una cosa del genere. Per 2, 5, attaccato, lui. Oh, il Leoncino, se ti stesso momento, ma quello smette mi muove. Però non so se è attaccato o staccato. Non l'ho mai controllato prima. E te ne sono sicuro che tu non sei così, sì. A bomba. Come sta dicendo, Salvi? Mi ha attaccato si tu ora. K? Sì. Eia? No. Prova a attaccare. Non ho capito. Prova a attaccare. Aspetta, adesso stand by. E adesso è attaccato, guarda. Ora. Prova. Prova, io la provo. È già provato. Cioè è possibile che attenuato sia la stessa cosa, beh. Già cambia qua, cambia parecchio anche. Qua ne fa anche a te, Crespo, va bene. Oh, qua io sto atterruando e mi arriva a sacco, strano. Ci andiamo ad attaccare, che adesso le lattere saranno nove. Guarda a me, parecchio, la verità, te lo sto dicendo io. Prova già, stacca e attacca. Fa anche a te, va bene, quando attacca. Vabbè, io ci ho tre matte giù, prova già a staccare. Guarda, vedremo, vedremo, vedremo, vedremo. Come l'antenna di Gianni. non c'è mai gente che c'ha il segnale tuo, che però tu sei dall'altra parte della città. Poi ti prendo un attimo, se è tanto di due la via casera, allora il discorso cambia invece, ho 30 watt modulati, 10 importanti e 30 modulati. È positivo, sei sul 3, schiaccia di Lucia, eh? Sì, mi vale. Mi arriva un pilino più fortino, così attaccato. Qualcosa che non va sicuramente. e sei tocchi il segnale. Cosa tocca a te? Cosa tocca a te che si sei tu il segnale? Guarda. E adesso? Adesso ti sei abbassato. Ma che fai il più forte? Cosa hai fatto? Niente, non ho fatto niente io. Hai capito? Non ho fatto nulla. Non ho toccato niente. Come era adesso? E adesso sta andando. Non ho toccato proprio niente. Allucinante, mi ha fatto un passaggio, là mi prende con lo zero in pieno, sopra lo zero, qua c'è la fine dello zero, adesso è in mezzo, tra il 3 e lo zero, vabbè. Sì, sicuramente come si sposta una variabile lì della, del tunnel, dello strumento, cioè del lineare. Ma ridotto qui Giuseppe, fallo sempre l'accordo massimo, lascialo così, potrebbe andare tra il 6 e il 7, ma cosa, quanto ce l'hai la lancettina, dove sta segnando? Allora, segnale dove c'è il coso è a 2, hai capito? 2. A 2? Ma che strano. Perché dopo c'è la mano però un contrario, Antonetto. Io ce l'ho sul 6-7, rimane sulla cordata massima. Rimane sul 6-7. Guarda Valere, aspetta un attimo, guarda. Guarda. Devi fischiare. Tanto c'è anche un granalino, non c'è. Cioè, non devi fischiare, no? Non si fischia a legnare all'albero. Tieni la portante pronta, se fa parlare è il pomellino, il pomelliometro del tune, lo devi far andare al massimo accordo della lancetta, quindi alla massima posizione della potenza, senza fischiare, non devi fischiare. Non si fa l'accordo, quindi si rimane all'albero. Qua adesso sta toccando quasi 150, hai capito qua? 150. Diceva che non era accordato bene. Accorda bene, senza fischiare. Con la portante calcata, piano piano vai al massimo accordo, muovendo da destra verso sinistra e ti accorgi dove la lancetta si forma al massimo accordo, senza muoverlo molto il tune. Non lo devi muovere molto, senza fischiare. Una volta che hai accordato, allora fischi per vedere se va avanti o se va indietro. Va bene, ok. La porta azimuta, prova a guardare perché sono sicuro che sia arrivato sopra lo zero e adesso non ci sei più. Adesso quanto ce l'hai Giuseppe? scatto rimane sempre a 2, hai capito? Là. Però segna sempre da 100 a 120, capito? Mi sta entrando sonno anche a me. Va bene, chi c'è rimasto? invece, bombolo, tu ci sei, sì. Se scappa, dai, anche io chiudo, Claudio. Chiudo. Ascolto un po' i commenti, poi, via. Che c'è il mister che sta parlando di come. Io sono tutto il discorso, e poi andrò a mamma, dai. Ciao, cara, buonanotte a tutti, dai. Ciao, ciao, Anto, buonanotte, saluta anche a te, sentiamo. Avanti, salve. Scappa, dai. Saluto il Lucino, se non sbaglio, che quando si facevano quelli di Antonio Bombo, dai. Saluto il Gatta. Ma, vabbè, ma non te ne ho mai chiesto, ma questa radio ti piace, è normalissima. Male, una radio normale, va bene. Ma già funziona bene, Dio, tu dai, al pagliato di Dio, sto utilizzando. Ok, buonanotte. E la palla, tu ci sentiamo. Devo fare qualche cosa per questo qua, ascolta. Di notte con la finestra chiusa non si può andare. Oh, Claudio, troppo in bomba. Sì, se non ti interessa, non ti vuoi ascoltare, però il bombo è... Io quando uso la 48 uso la di giorno, di notte non uso mai. Però è comodo per farti una regolazione, qualcosa. Ottimo per i buffi, come infatti lo vedo da vento, non ci sono alternative, quella è una scelta che devi fare. Mi sono rotte le cuffie, quelle senza fili, me le devo comprare nuove. Fortunatamente c'è questa stanza da solo e chiudo, aspetta che apro mia figlia. Appa già. Cambio. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte, ecco.